Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va? Ben ritrovati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon, che riprende le sue trasmissioni in qualche modo con un ricapitolo delle puntate precedenti, ovvero l'iniziativa del CRAP dal momento in cui la trasmissione poi a giugno ha smesso di essere trasmessa settimanalmente. Riprendendo quindi, vediamo cosa ci siamo persi, cominciando col 19 luglio alle 19, questo era l'appuntamento, e il titolo «Sono un ribelle babbo». Qua sono con Morena, sempre della redazione, e quindi parliamo di questo appuntamento al Teatro dei Mignoli. Quindi sono i 300 scalini, un luogo molto, molto bello, molto suggestivo. La collaborazione con il Teatro dei Mignoli è stata assolutamente efficace e abbiamo cominciato proprio con una passeggiata che è nella loro tradizione, da Villa Spada fino a raggiungere la vetta di questa piccola collina, e lì si è svolta l'iniziativa. Un'iniziativa che ha visto protagonisti del Teatro dei Mignoli due attrici molto brave, Simona e Paola, che hanno fatto una egregia lettura delle tavole del Pinocchio, che noi avevamo selezionato e anche messe in mostra. Questa è una mostra che avevamo già visto, lo ricordiamo, alla Sala Borsa in febbraio. Qui c'è una piccola selezione, fa parte del Pinocchio che fu pubblicato sul Pioniere nel 1954 con le tavole di Verdini e i commenti di Gianni Rodari. La serata è stata anche molto, molto divertente, e poi ci sono state una serie di interventi del CRAP che hanno commentato parte di queste tavole. L'intervento ha riguardato la condizione della donna a partire dalla figura di Fata Turchina, o ancora il tema del lavoro, pensiamo allo sfruttamento di Lucignolo e Pinocchio nel famoso paese dei Bengodi. Si è parlato anche delle varie interpretazioni cinematografiche del Pinocchio, dai primi esperimenti ancora degli anni 20 fino a quelli contemporanei, ovviamente passando anche per l'incredibile versione televisiva di Comencini. Abbiamo parlato anche di ambiente, perché poi in questo Pinocchio temi che avremmo potuto affrontare sono veramente tantissimi. Ne sono stati scelti alcuni con degli interventi molto brillanti che hanno messo, diciamo, il focus anche sull'attualità di certe questioni. E anche abbiamo avuto un intervento del Giuseppe Chiarello, dell'archivio di Nicio Berti, che in qualche modo ha parlato di quella parte dell'esposizione di cui faceva riferimento al tempo della Sala Borsa, che non c'era in questa occasione, cioè quella delle tavole di Nicio Berti, che era un invito al popolo a ribellarsi. Dunque una bella serata che si è conclusa col concerto degli IE, un gruppo demenziale che ben si contestualizzava nel concerto generale della manifestazione stessa. Io volevo ricordare che noi abbiamo comunque a disposizione il catalogo, quindi chiunque volesse averlo, dove appunto si possono trovare tutte le tavole, le filastrocche di Rodari e anche quelle di Vinicio Berti, che fu, lo diciamo sempre, una colonna portante del nostro giornalino, può reperirlo proprio al CRAP. Un'iniziativa riuscita, complice ovviamente questa bellissima serata di mezz'estate lassù, qui a Bologna, nel Parco del Pellegrino, quindi le tavole di Pinocchio, il fresco in una Bologna altrimenti torrida, questi interventi a partire dal Pinocchio attualizzato, e quindi anche, come se bastasse, la bellissima veduta di Bologna sottostante. Ma ascoltiamo allora un frammento veloce di una lettura di una delle due attrici del Teatro dei Mignoli, che appunto ha interpretato dei passaggi del Rodari. Mentre sogna il grullerello di monete un alberello, lo deruban di soppiatto Donna Volpe e Messer Gatto. Da Loreto con malizia al monello la notizia del tesor due buoni amici t'han lasciato le radici. Va Pinocchio a far lamento dell'infame rubamento, va a lagnarsi col pretore, che è un gorilla di buon cuore. Con saggezza e con prudenza dal gorilla la sentenza. Ti sei fatto derubare? Fila dritto al cellulare. Oh, sentenza sorprendente. Va in prigione l'innocente. E in prigione a lui rimane mesi 4 ad acqua e pane. A salvarlo un'amnistia viene al fin di prigionia. Escon ladri con furfanti e Pinocchio esce fra i tanti. Per tornare dalla fata spicca il nostro una volata. Povero Pinocchio, quante ne ha passate e quante gliene capiteranno ancora. Viva ancor la troverà? L'altro foglio lo dirà. Volevi diventare come un dino. Dall'alto non c'è qualcuno che comanda, muove i fili, perde. Adesso la gente di te più non riderà. Non sei più un salto in banco, ma vedi quanti fili che hai. È stata tua la scelta, allora adesso. È stata tua la scelta, allora adesso te vuoi. Sei diventato proprio come... Ricordando che questa iniziativa Sono Ribelle Baba è stata organizzata dal, ovviamente, il CRAP, dal Teatro dei Mignoli, ma anche da Radio Città Fusico, che è un partner in qualche modo onnipresente in queste iniziative. Beh, sempre a Radio Città Fusico, questa volta sempre col CRAP, ma anche con la collaborazione Sopra i Ponti e del CSI, questo ensemble di attivisti, antropologi e medici che lavorano nel quartiere della Pescarola, si è avuto la creazione di questo volumetto, che appunto è arrivato stampato proprio all'inizio di agosto, un fumetto Che vita in Pescarola, volando basso. Un fumetto che nasce da un workshop, un progetto di ottobre scorso che si chiamava Nuvole Ribelli, che ha chiamato a raccolta studenti dell'università o del primo lavoro, ragazzi adolescenti del quartiere, attivisti dell'informazione di Radio Città Fusico, nonché appunto esponenti di SIP e del CSI. In questo insieme si è fatta un'indagine sul territorio, un graphic novel evidentemente di questo quartiere Pescarola, a partire da alcune interviste fatte con residenti del quartiere medesimo. Da qui è sortito un fumetto che appunto è stato distribuito e presentato anche nell'agosto. Sì, è un fumetto che abbiamo appunto pubblicato e fortunatamente è stato editato proprio l'ultima settimana di agosto, appena in tempo per essere presentato in una, al Parco Bra, in una situazione molto particolare. Di questo fumetto che cosa dobbiamo anche dire? Che c'è stata una collaborazione anche di Stella Alpina, perché sono loro che ci hanno aiutato a poterlo pubblicare nel modo migliore. È un fumetto che ha una grafica molto interessante ed è appunto un ensemble di idee di mani diverse artistiche che lo rendono molto particolare, molto interessante, soprattutto perché come Comitato Ricerca e Associazione Pionieri a noi piace l'idea che il lavoro dal basso, il lavoro orizzontale, il lavoro collettivo sia da rivitalizzare e rivalutare, e che può davvero produrre e creare prodotti davvero straordinari, e questo lo è. È stato questo fumetto presentato già 31 agosto in occasione dell'arrivo a Bologna di questa carovana ecologista e sollevamenti della terra, che incontrandosi col comitato Bertelli e Lazzaretto, quello che si batte contro la servitù dell'aeroporto Marconi nella nostra città, beh, questo fumetto presentato ha avuto un grande riscontro e ha fatto direi quasi un sold out delle vendite, che è una cosa significativa, anche perché si chiama Volando Basso e proprio prende spunto e lega le varie storie che raccontano diversi aspetti del quartiere, ma le lega tutte con la caratteristica che unisce tutti i residenti del quartiere Pescarole, cioè il fatto che i voli di aeroplani in atterraggio e decollo sopra la testa a pochi metri, creando un grande disturbo, quindi un elemento di forte impatto ambientalista che poi si combina con gli altri elementi delle sofferenze della Pescarola, perché è un quartiere dove incidono molte infrastrutture pesanti come la tangenziale, l'alta velocità, people mover o anche un traffico locale davvero intenso, quindi un tema ambientale è stato riconosciuto e che è stato visto questo fumetto come una testimonianza importante. Voglio ricordare anche la prefazione di Giuseppe Palumbo, e nella prefazione lui proprio sottolinea che questo è una narrazione di luogo. Narrazione di luogo oggi è un tipo di narrazione a fumetti che sta prendendo piede ed è davvero molto interessante seguire. E allora in questa presentazione del 31 c'era anche uno dei disegnatori, Giacomo, di cui sentiamo un momento il suo intervento. Hai preso parte a questo workshop dei fumetti, cosa ti aspettavi? E quello che ti aspettavi è quello che stai vivendo oppure è qualcosa di diverso? Allora, una delle cose che mi aspettavo era di trovare persone che avessero la mia stessa sensibilità nei confronti di quello che è il media del fumetto, comunque dell'illustrazione, e anche un interesse a quelle che possono essere tematiche sociali e criticità del territorio, che comunque anche con la mia laurea di educatore che sto ancora studiando sono argomenti che mi interessano molto e che fanno parte del mio quotidiano. A tutti gli effetti sono aspettative che sono state riscontrate. Ma è la tua prima esperienza sui fumetti? Sui fumetti sì, in gruppo sì. Fumetti per conto mio qualcosina avevo fatto, ma nulla di che. Sì, faccio disegno più randomico, diciamo. E in questo workshop qual è il passaggio che per adesso ti ha più preso? Mi sono piaciute molto le interviste, sia perché appunto potevamo ascoltare direttamente la voce di chi abita Pescarola, ma anche perché una pratica che mi piace molto è disegnare dal vivo le persone e quindi ascoltare e disegnare allo stesso tempo sicuramente dava un'impronta ai miei schizzi anche un po' più personale, intima delle persone che stavo vedendo e ascoltando. 5 minuti e un jet partirà portandoti via da me. Ma già all'inizio di settembre dobbiamo segnalare un'altra iniziativa tenutisi sempre a Bologna, questa volta ospitata dalla Casa dei Pensieri presso la Festa dell'Unità della città. L'iniziativa che riguarda un bravo maestro, Alberto Manzi, che tutti ricorderete se non altro per il suo famoso Non è mai troppo tardi, quando la TV era in bianco e nero, ma un personaggio poliedrico che va sviscerato nelle sue tante attività, nella sua complessa ma altrettanto semplice visione del mondo, e l'abbiamo fatto con tre persone completamente al corrente dei fatti, Patrizia D'Antonio, ricercatrice, Mirella D'Ascenzo dell'Università di Bologna e Roberto Farnè, un ricercatore, anche lui a suo tempo partecipe dell'università locale della nostra città. Presentava il tutto la scrittrice per il CRAP, Silvia Albertazzi. Anche questa è un'iniziativa molto riuscita di pubblico, nonostante ci sia stato un grosso temporale che ha un po' ridotto la vivibilità dell'iniziativa, ma sia Patrizia D'Antonio, Mirella e Roberto sono stati veramente straordinari interlocutori e narratori della storia, delle vicende, della figura di Alberto Manzi. Sono 100 anni dalla morte, il titolo dell'iniziativa era Insegnare per dare libertà. Quindi Alberto Manzi è stato trattato sotto vari aspetti, Mirella D'Ascenzo l'ha inquadrato storicamente e contestualizzato in un'epoca appunto nel dopoguerra dove ancora la scuola aveva grandi, ancora tradizione purtroppo fascista. Roberto Farnè ci ha raccontato del suo incontro e anche dell'aspetto più umano del maestro. Lui è quello che è riuscito a realizzare con Manzi una lunghissima e bella intervista che è anche reperibile. Patrizia D'Antonio, che è l'autrice di questo libro Ogni altro sono io, e che fa davvero un'analisi importante e ha trattato un aspetto di Manzi che è poco conosciuto, che è quello di Manzi scrittore, in particolare scrittore per ragazzi, quando ancora il racconto, la narrativa per ragazzi era forse all'inizio. Tra i vari interventi sentiamo un breve segmento di Patrizia D'Antonio che appunto dà un po' la visione cosa sia l'istruzione per Alberto Manzi. La finalità dell'educazione per Manzi è chiara ed è ciò che lo rende straordinariamente attuale. Si tratta di educare a pensare. Egli opera per preparare ragazzi a diventare futuri cittadini del mondo. Sostiene che le nuove generazioni si troveranno di fronte a un mondo che non sappiamo neanche immaginare, e ne sappiamo immaginare i cambiamenti che si realizzeranno né per le conoscenze che saranno necessarie, che saranno richieste. Quindi l'obiettivo che ci si deve porre nell'insegnamento è soprattutto sviluppare il senso critico, ovvero saper pensare autonomamente. Naturalmente questa idea si fonda su valori radicati in lui che nascono sì nel dopoguerra, ma che sono tuttora attuali. Sono basati sulla necessità di creare dei cittadini liberi, civilmente, che sappiano convivere civilmente, in pace e democraticamente, in un contesto sociale di superamento dei conflitti. Ma che musica, che musica, che musica, maestro! Hai trovato la via giusta per la celebrità. Ma che musica, che musica, che musica, maestro! Questa bella sinfonia tutto il mondo canterà. E allora dai, dai, dai, viva le feste, se in un mese son 100 in più. Viva le feste, se in un anno son 1000 in più. Siamo da Bologna e andiamo nel Novarese a Vararlo Pombia per la 15ª Resistenza in Festa, tradizionale manifestazione che quest'anno si tiene il 13, 14 e il 15 settembre. Come sempre c'è tutto e di più in questa festa. Prima c'è uno spazio per bambini con giocoleria, abbiamo l'aspetto della ristorazione col pranzo sociale e abbiamo anche da segnalare altri 100 anni da ricordare, quello dell'assassinio, ahimè, di Giacomo Matteotti, che fu in qualche modo anche l'incipit della stretta finale della dittatura fascista. Si tratta di un concerto, un canto per Giacomo, per questa morte illustre. La band è il Baraban, storica band della musica popolare italiana, conosciuta in tutta Europa e in America del Nord. I musicisti sono Vincenzo Cagliotti all'organetto diatonico, Aurelio Citelli alla voce solista tastiere, Giuliano Grasso al violino, Alberto Rovelli contrabbasso. È un'iniziativa ovviamente gratuita dove viene in prima fila come organizzatori Pietro Beldì e la sua associazione culturale Stella Alpina, ma in collaborazione con l'AMPI e anche tra le altre realtà culturali politiche che hanno aderito a questa iniziativa e hanno partecipato naturalmente la nostra, il Comitato Ricerca e Associazione Pionieri, il CRAP. Sentiamo un brano allora della musica dei Baraban. parliamo di questa guerra che sarà lunga un'eternità, per conquistare un palmo di terra quanti fratelli son morti di già. Trincea dei razzi, maledizione, quanti fratelli son morti lassù. Finirà dunque sta flagellazione, di questa guerra non se ne parli più. Fuoco e mitragliatrici, si sente il cannone che spara, per conquistar la trincea Savoia si va. Fuoco e mitragliatrici, si sente il cannone che spara, per conquistar la trincea Savoia si va. Da Montenero a Monte Cappuccio, fino all'altura di Doberdò, un reggimento più volte distrutto, al fine indietro nessuno tornò. Non ne parliamo di questa guerra, che sarà lunga un'eternità, per conquistare un palmo di terra, quanti fratelli son morti di già. Fuoco e mitragliatrici, si sente il cannone che spara, per conquistar la trincea Savoia si va. Fuoco e mitragliatrici, si sente il cannone che spara, per conquistar la trincea Savoia si va. L'ultima iniziativa che ci porta a quest'ottobre è quella che il CRAP ha organizzato a Villa Paradiso in via Emilia Levante 134. Il titolo era significativamente Matite di strada, fumetti collettivi di testimoni consapevoli. Questa cosa ancora una volta organizzata assieme a Radio Città Fujiko e l'associazione culturale Villa Paradiso. Gli interventi erano corposi e si ricomincia da Volando Basso, il fumetto del CRAP e del suo workshop. A parlare il sottoscritto Alfredo Pasquali con Antonella Selva, altra protagonista di questo workshop, che daranno l'incipit a un discorso che riguarderà il lavoro collettivo. A seguire Giuseppe Ciarello e Lido Contemori, protagonisti di Nuvole in città, storie delle città a fumetti disegnate a 24 mani, e forse qualcuno in più. Giuseppe Palumbo con Sein Rosbeck e Silvia Dall'Ora di Hayat Onlus. Eva sono io, progetto di sceneggiatura di donne italiane di origine straniera. Quindi è il momento di Bambi Kramer, Detroit Evictions Defense, è il momento per la casa che si batteva contro gli sfratti in quella città nordamericana. E quindi Gianluca Costantini, figura assai nota a Bologna anche per la famosa icona di Patrick Zacchi Libero. Quindi con Gianluca nel mirino della memoria, ritratti di giornalisti uccisi in Palestina, in più il caso Assange come esempio di rete internazionale e di pressione dal basso. Il tutto moderato da Piero Domenico, giornalista del Corriere della Sera. E per ricordare questo 28 settembre, un commento sul lavoro collettivo proprio di Giuseppe Ciarallo. Ragazzo degli anni 70 che crede fortemente nell'esperienza collettiva. Sì. Una persona che dalle lotte degli anni 70 fino a metà degli anni 80 ha vissuto molto male quella caduta nell'io che ci ha... che ha devastato un'intera nazione anche dal punto di vista culturale, e quindi vedere rinascere, la prima esperienza che ho potuto avere fortunatamente è stata quella con Stefano Tassinari e la rivista Letteraria, cioè ritornare dopo un'ubriacatura dell'io a una visione collettiva delle esperienze culturali, eccetera, per me è stato di nuovo ricominciare a respirare. Sì.